falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Signori, l'attesa è finita. Dopo anni di lavori, appalti, inchieste, cantieri, polemiche, contestazioni, è arrivato il grande giorno che io da milanese annuncio con orgoglio. Oggi è il 1° maggio 2015, apre l'evento che attirerà su Milano l'attenzione di tutto il mondo per i prossimi 6 mesi. Oggi apre l'Expo. Il tema dell'Expo, lo sapete, è nutrire il pianeta, energia per la vita. È un tema che verrà affrontato con convegni, studi, manifestazioni, sarà analizzato in ogni suo aspetto. È un momento di riflessione per trovare le giuste soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo. È un mondo in cui da una parte ci sono molte zone dove si muore di fame o si combattono guerre per il diritto alla sopravvivenza, e in altre zone si muore di indigestione, si combatte l'obesità, le cattive abitudini alimentari, gli sprechi. Bene, noi oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata a una persona che ha lottato e continua a lottare per il diritto alla sopravvivenza, per un popolo che ha sempre vissuto a stretto contatto con la natura e ha rispettato i doni della terra che ha coltivato. Stiamo parlando delle tribù indigene Maya Quiché del Centro America e della donna che ha portato alla luce un genocidio che ha sterminato il suo popolo per interessi economici. Quella donna è il premio Nobel per la pace Rigoberta Menchú Tum. Tornato, lo sapevo! Beh, volevo lasciarti tutto il merito e tutta la ricompensa! Non ti interessavano soltanto i soldi! Poveri noi! Se uno riesce a sentirmi, di qualcosa! Potete ripararlo, non è vero? Cominceremo a lavorarci subito! Dovete ripararlo! Signore, se qualcuno dei miei ingranaggi può servire, lo tornerò con gioia! Tornerai come nuovo! Guerre stellari, e vi chiederete cosa c'entra guerre stellari con un premio Nobel e con l'Expo. Beh, c'entra, perché nel finale del primo film della saga, nel 77, i ribelli stabiliscono la loro base su un pianeta ricoperto da una fitta foresta su cui svettano delle piramidi di pietra altissime. La location di quella scena è il Guatemala, e stiamo parlando del sito archeologico Maya più famoso del mondo, la riserva della biosfera Maya. Perché i Maya, prima di essere tirati in ballo per la famosa predizione della fine del mondo del 2012, sono stati una delle più grandi civiltà precolombiane. I discendenti dell'antica popolazione Maya sono sparpagliati in diverse zone del Messico, nell'Honduras, nel Belize e nel Guatemala. È una civiltà che ha imparato a tramandare le proprie tradizioni e la propria cultura oralmente di generazione in generazione. Questo però non ha impedito che si formassero diverse tribù, ognuna con un proprio dialetto. Una di queste tribù, la principale del Guatemala, è la tribù Quiché, di cui fa parte anche Rigoberta Menchú. Mi chiamo Rigoberta Menchú, ho 23 anni. La testimonianza che voglio dare non è qualcosa che ho imparato da un libro, né tantomeno che ho preso da sola. L'ho imparato assieme al mio popolo. I brani che ascolteremo oggi sono tratti dal libro Mi chiamo Rigoberta Menchú, scritto nel 1983 dall'antropologa Elizabeth Burgos. È un libro nel quale la Menchú ha raccontato le vicissitudini del suo popolo e le oppressioni a cui è stato sottoposto, attirando sul problema l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. È un libro denuncia che ha portato alla luce la strage delle popolazioni indigene da parte dei Ladinos, i discendenti dei conquistadores spagnoli. Brother Johnny, he caught a plane and he got on it. Pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. La giovane Rigoberta racconta della sua infanzia vissuta tra riti quotidiani e tradizioni pagane tramandate dagli anziani dei villaggi, della difficoltà di un popolo diviso in 22 tribù e altrettanti dialetti, difficoltà di unirsi e combattere contro una forma di schiavismo esercitato dalla popolazione di lingua spagnola. Gli indios sono contadini, gente umile che ha prima di tutto coltivato la terra per sé, per la propria sopravvivenza, stabilendo però con la natura un legame stretto di collaborazione e rispetto. L'alimentazione è fatta di ciò che si coltiva, le abitazioni sono costruite di arbusti e gli animali sono componenti della famiglia. Il mais, la milpa come lo chiamano loro, è alla base dell'alimentazione guatemalteca. Fin da bambini riceviamo un'educazione differente da quella dei bianchi, i ladinos. Noi indigeni abbiamo un rapporto profondo con la natura. Noi non siamo politeisti, ma adoriamo, o meglio, rispettiamo una serie di elementi della natura. L'acqua, che consideriamo sacra, la terra, che ci dà da mangiare, e poi il mais, che è all'origine dell'uomo. Narra un'antica leggenda indigena che l'uomo ha origine da palline di mais impastato con acqua. Il legame che unisce quindi le popolazioni indios alla natura è fortissimo. Gli indios sanno coltivare la terra, ma la storia recente li ha sottomessi ai potenti che dai tempi dei colonizzatori spagnoli si sono succeduti al governo del Guatemala. Rigoberta Menchú inizia a lavorare come bracciante a soli 5 anni. Sin da bambina è testimone dei soprusi che il suo popolo subisce da parte degli spagnoli. Ho visto morire mia madre e i miei fratelli, vittime di soprusi e torture. La gente povera è facile da comandare, perché non ha la forza di ribellarsi. Io non ero capace di disobbedire. E i padroni approfittavano di tutta la mia obbedienza, approfittavano di tutta la mia semplicità. Il Guatemala è la tipica nazione martoriata che è in balia di una guerra dietro l'altra e praticamente è stato in balia della guerra civile dal 60 al 96. Guerra legata agli interessi economici delle grosse industrie alimentari del Nord America, come la United Fruit Company, con l'appoggio dei servizi segreti americani. Ha presente Chiquita? La banana di Echelode, ha presente? Beh, un tempo si chiamava United Fruit Company. Avevano enormi piantagioni in Guatemala e controllavano il governo con dittatori compiacenti. Per questo la chiamavano la Repubblica delle Banane. Ma poi nel 51 ci furono libere elezioni e divenne presidente il colonnello Arbenz. E la prima cosa che fece fu sequestrare i terreni alla United e nazionalizzarli. Un vero disastro per la compagnia. Beh, allora sa che fecero? Ingaggiarono un pubblicitario. Lui pose il problema in modo diverso. Non era in ballo il profitto di una multinazionale. Era in ballo la libertà dell'America. E come al solito l'America si fa riconoscere. Il pubblicitario in questione si chiamava Edward Bernays. Con l'attività del suo ufficio stampa riesce a innescare nell'opinione pubblica la paura che il colonnello Arbenz fosse finanziato da Mosca e che dal Guatemala dovesse partire l'invasione degli Stati Uniti. Il governo americano viene quindi legittimato, come al solito, a bombardare città del Guatemala e rovesciare il regime del colonnello Arbenz, dando il via alla guerra civile. Figuriamoci, è quello dell'intervento di polizia internazionale, dell'esportazione della democrazia. E sappiamo che questo è lo sport praticato negli Stati Uniti e, visti i fatti più recenti, è lo sport che intendono praticare ancora. Oh mamma mamma, look there, remember the name the day before the army came. Please remember Victoria in the Santiago Stadium. Ever that it was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, a banner for the playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color, the color is a spray of lead. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Il Falco e il Gabbiano. Siamo in Guatemala, è un paese del Centro America che vive una guerra civile lunga 36 anni, guerra civile incentivata, come spesso accade nel mondo, dagli esportatori di democrazia statunitensi. Il paese ovviamente è stremato da questa situazione, a farne le spese sono ovviamente i più poveri, e tra questi poveri ci sono le minoranze etniche, i discendenti dell'antico popolo dei Maya, divisi in tribù, dediti alla coltivazione della terra, sfruttati dalla popolazione spagnola che è proprietaria della maggior parte delle terre. In uno di questi villaggi indigeni cresce la nostra protagonista, Rigoberta Menchú. Ricordo che in aquellos años no teníamos zapatos. Ricordo che qualche volta non avevamo scarpe. Camminavamo a piedi nudi per 9 ore per ritornare al villaggio, superando sentieri, pietrai e fiumi, carichi di roba da rivendere al villaggio. Cosa della montagna per vendere al pueblo. Il padre di Rigoberta, Vicente Menchú, è un contadino, un campesino che però ha un carattere forte, combattivo. È uno che sa farsi rispettare, che è amato dagli altri abitanti del villaggio perché spesso si prende a cuore dei loro problemi e quindi prova a risolverli. Ecco perché è tra i fondatori delle cooperative di contadini e del movimento cristiano rivoluzionario, da cui nascono i primi tentativi di opporsi alle forze armate guatemalteche. La madre invece è una donna umile ma decisa che cresce 9 figli in un ambiente decisamente ostile. Però mia madre sì era brava, mia madre era molto enojada. Però mia madre era una donna eccezionale, lavorava sempre, perché questo era ciò che eravamo costretti a fare. Ma al tempo stesso mi ha insegnato il valore del lavoro e quanto il lavoro sia necessario per mantenere la propria dignità. E il lavoro dignifica le persone. 9 figli, ma di questi pochi ne sopravviveranno. Gli indios sono trattati come schiavi dai ladinos, il valore della loro vita è insignificante. I militari al potere nel corso degli anni attuano una serie di azioni di guerra alla ricerca dei guerriglieri che vivono nelle zone più impervie del paese e vengono aiutati dalla popolazione locale. Così nel corso dei 30 anni di guerra vengono rasi al suolo interi villaggi e tutti, uomini, donne e bambini, vengono uccisi. Le violenze nei confronti delle donne indio sono la normalità. Rigoberta cresce diventando testimone di tutto questo orrore. Ogni volta che arrivavano nel villaggio dei ladinos, dovevamo nasconderci. Urlavano, prendevano gli uomini e li caricavano sui camion. A volte questi uomini non tornavano e noi bambini non capivamo perché tutto questo stesse accadendo. Nel 1967, con l'elezione del generale Méndez, il primo di una lunga serie di generali che governerà il Guatemala per i successivi 30 anni, Rigoberta viene nascosta dal padre in un convento dove impara la lingua dei ladinos, lo spagnolo. Per combattere tuo nemico devi, prima di tutto, capire quello che dice e parlare la sua stessa lingua. Poi, nel 1973, va a lavorare come domestica in una casa di città del Guatemala, dove rimane diversi mesi. In questo periodo vive momenti di grandi umiliazioni da parte dei suoi padroni, che la trattano al pari di una schiava, considerandola inferiore come tutti gli appartenenti alla razza indios. Rigoberta si accorge che l'atteggiamento della parte ricca della popolazione, di quei pochi che hanno soldi, potere e soprattutto armi, sta diventando insostenibile. Occorre fare qualcosa prima che l'odio crescente nei confronti dei discendenti dei Maya si manifesti con tutta la sua violenza. And the people sway. Everybody says, are you going my way? Uncle Tom's still working for Uncle Bill. Scarlet Town is under the hill. Nel 1979 il Guatemala vive uno dei periodi di maggior violenza della sua storia. Il padre di Rigoberta, Vicente, è un esponente del Comitato di Unità Contadina, viene messo in carcere. Il fratello di Rigoberta, Patrosinio, viene arrestato, torturato e poi pubblicamente esposto nelle strade del villaggio. I soldati vogliono far capire chi comanda. Acuérdate, Monica, che in Guatemala. Sono gli anni in cui nell'esercito del Guatemala viene costituita la Brigata Caibil, una truppa speciale che aveva come unico scopo uccidere, torturare, radere al suolo i villaggi e catturare gli uomini, non prima di aver violentato le donne. Io credo che il popolo guatemalteco sia stato quello che più di tutti in America Latina ha vissuto questi terribili orrori. Por todas estas crueldades. Il governo dei generali che negli anni precedenti ha sfruttato il popolo indigeno affamato, analfabeta, completamente isolato dal mondo e all'oscuro delle ragioni per cui la guerra civile stava martoriando il paese, improvvisamente intensifica la violenza contro gli indios e inizia un periodo di vera e propria pulizia etnica. I villaggi vengono rasi al suolo, le donne violentate e uccise, gli uomini torturati e fatti sparire in fosse comuni. È una tragedia di cui il mondo intero rimane in quegli anni totalmente all'oscuro. Chi può fugge sulle montagne, gli altri più fortunati lasciano il paese e scappano in Messico. Mio padre fu membro fondatore del CUC, che era il Comitè di Unità Campesina. Mio padre fu uno dei fondatori del CUC, il Comitato di Unità Contadina, che fu accusato dai militari di essere alleato dei guerriglieri. Quasi tutti i fondatori del comitato furono perseguitati, ma non solo loro, anche le loro famiglie. Non solo matavano al jefe della famiglia, matavano a tutti. La famiglia di Rigoberta Menchú viene perseguitata perché il padre Vicente è uno di quelli che si è messo a capo dei contadini e protesta per i soprusi e le violenze che il suo popolo deve subire. L'unica via d'uscita è rifugiarsi in montagna, aiutare la resistenza. Ma Rigoberta ha quasi 20 anni e vuole combattere, vuole contribuire alla lotta che il padre e i fratelli stanno portando avanti. Nel gennaio del 1980 accade però un altro fatto gravissimo che tocca nel profondo l'anima di Rigoberta. Nel gennaio dell'80 una delegazione di contadini disarmati, di cui faceva parte anche Vicente Menchú, venne accolta dall'ambasciatore spagnolo Cajal all'interno dell'ambasciata spagnola per denunciare gli atti di violenza dell'esercito nella regione del Quiché e venne convocata una conferenza stampa. In quel momento il presidente del Guatemala è l'ennesimo generale, si chiama Lucas Garcia, è considerato un uomo brutale, intellettualmente limitato, contrariamente a qualsiasi legge internazionale di inviolabilità territoriale, decide di anticipare i giornalisti, ordina alla polizia di entrare all'interno dell'ambasciata spagnola, vengono sparati dei fumogeni, scoppia un terribile incendio, l'ambasciata brucia e alla fine si conteranno 37 morti. Tra cui il padre di Rigoberta Menchú. Per sapere cosa è accaduto dopo questo terribile evento, rimanete con noi. A dopo. Stiamo raccontando la triste storia di un eroe dei nostri tempi, Rigoberta Menchú, premio Nobel per la pace del 1992, che ha denunciato il genocidio delle popolazioni indigene del Guatemala portato avanti con una violenza inaudita dal governo dei generali nei 30 anni della guerra civile che ha martoriato il Centro America. Nel gennaio del 1980 Vicente Menchú, padre di Rigoberta, alla guida di una delegazione di contadini, muore con altre 37 persone nell'incendio dell'ambasciata spagnola di Città del Guatemala. L'incendio è stato provocato dalla polizia, che oltretutto impedisce l'ingresso dei soccorritori e nei giorni successivi va ad uccidere altri manifestanti direttamente negli ospedali dove erano stati ricoverati. La Spagna interrompe per un paio d'anni i rapporti diplomatici col Guatemala. Mio padre fu ucciso con altre 37 persone e fra queste persone c'erano amici, vicini, cugini. Ma la cosa più terribile è la paura con cui devi convivere. Ogni volta che cammini per strada hai paura di essere seguita, spiata, che ti accada qualcosa di terribile. Un nemico letale. Se pensate che le sofferenze di Rigoberta Menchú siano arrivate al capolinea, vi sbagliate. Qualche mese dopo la tragedia dell'ambasciata, anche la madre di Rigoberta viene sequestrata, torturata e uccisa. A questo punto per lei l'unica possibilità di salvezza, l'unico modo per scampare a morte sicura è l'esilio. La fuga in Messico nell'81 è tanto necessaria quanto dolorosa. E infatti per un indigeno il sentimento di attaccamento alle proprie radici è così forte che anche la separazione dalla propria terra provoca lo stesso dolore di una morte. Il Popol Vuh è il libro sacro degli indigeni Kiché, è una specie di Bibbia che raccoglie i miti e le leggende del popolo. In questo libro si legge questa frase che è una delle regole d'oro degli indios. Abbiamo sempre vissuto qui. È giusto che continuiamo a vivere dove ci piace e dove vogliamo morire. Solo qui potremo resuscitare. Da altre parti, mai riusciremmo a ritrovarci interi e il nostro dolore sarebbe eterno. Sembra tutto finito, un colpo d'ala negativo che si abbatte sulla vita di Rigoberta Menchú. Dopo aver vissuto la tragedia della morte dei genitori, la morte di un fratello, dopo essere stata costretta all'esilio, Rigoberta è costretta a osservare da molto lontano il suo popolo che muore. Le notizie vengono filtrate dai media, forse manovrati da abili controlli a opera dei servizi segreti americani. La Menchú sembra perdere il contatto con la sua terra. Ma proprio nei primi anni Ottanta, successivamente al clamore nato dal massacro dell'ambasciata spagnola, le Nazioni Unite cominciano a interessarsi alla guerra civile del Nicaragua e anche a Rigoberta, che viaggia sempre con nomi falsi e passaporti con visti provvisori per rifugiati, entra in contatto con una scrittrice venezuelana che la intervista e successivamente pubblica il libro di cui abbiamo parlato all'inizio. Mi chiamo Rigoberta Menchú. Ovviamente la biografia di Rigoberta. La biografia di Rigoberta ebbe un successo mondiale, da un lato perché era veramente un libro ben scritto, ma soprattutto perché è un libro che disturba, crea sentimenti di orrore, pietà, tristezza in chi lo legge. Ha lo stesso effetto di un golpe allo Stato del Guatemala. Il libro racconta nei minimi dettagli l'infanzia di Rigoberta, la morte dei suoi familiari, le violenze, le torture, gli assassini a opera delle milizie guatemalteche. E qui finalmente si apre una finestra. Il mondo conosce la realtà che da 20 anni sta decimando gli indios in una strage silenziosa con la complicità degli americani. Quando fu pubblicato il libro, fu una vera e propria esplosione. In Guatemala venne subito stabilito che se fossi rientrata per qualsiasi motivo, avrei dovuto essere arrestata per aver diffamato la nazione. Rigoberta Menchú ha portato alla luce il dramma del suo popolo. Immediatamente è stata considerata dal governo del suo paese una comunista, reazionaria, collaborazionista con i guerriglieri, un pericolo. E nell'88 si reca in Guatemala, è accompagnata da un accademico messicano e in una missione appoggiata dalle Nazioni Unite. Bene, appena i due scendono dall'aereo vengono arrestati e chiusi in una stanza dell'aeroporto. Solo qualche ora dopo, su pressione di una delegazione di politici messicani e europei, la Menchú viene autorizzata a andarsene, ma viene espulsa dal paese dove vive la sua anima. Ogni bambino nasce con il suo Nahual, Il Nahual è come la sua ombra, condurranno una vita parallela. Quasi sempre il Nahual è un animale. Il bambino deve dialogare con la natura e per noi il Nahual è un rappresentante della terra, degli animali, dell'acqua e del sole. Io non posso dire qual è il mio Nahual, perché è uno dei segreti che dobbiamo conservare. La spiritualità di Rigoberta Menchú è un misto tra cattolicesimo, che lei ha ricevuto come educazione, e spiritualismo antico, un misto di filosofia maya e tradizioni degli anziani, riti che vengono tramandati di padre in figlio e che ogni indio deve mantenere segreti per evitare che vengano contaminati da chi non può capire lo stretto rapporto che lega questo popolo alla terra in cui vive. Io credo che Dios le chiamiamo distinte maniere. Io credo che Dio lo possiamo chiamare in tanti modi diversi. Si può chiamare Dio, Ahau, come lo chiamiamo noi, Geova o in mille altri modi. La cosa più importante è che siamo corpo e anima, che dobbiamo avere fede, che possiamo coltivare la nostra spiritualità e dobbiamo vivere la nostra vita con coerenza. Beh, ci sono persone che hanno attorno a sé quella che possiamo chiamare aura, una spiritualità, una luce particolare, e io Rigoberta Menchú l'ho conosciuta, tra l'altro avevamo vinto una partita e lei ha consegnato una coppa a me e io ero molto imbarazzato, insomma, da questo. È una persona che trasuda umanità e capisci che dietro, insomma, c'è dramma, pensiero, spirito e anima. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Nel 1991, dopo 8 anni di esilio, Rigoberta Menchú ha ormai stabilito la sua sede in Nicaragua. Con l'appoggio internazionale di molte organizzazioni pacifiste, combatte dall'esterno la sua battaglia per il riconoscimento della persecuzione contro il suo popolo. Siamo a un appuntamento importante perché è l'anno in cui si festeggiano i 500 anni dallo sbarco di Colombo e i ladinos, i discendenti dei conquistadores, si preparano a grandi festeggiamenti. Rigoberta Menchú organizza una contromanifestazione coordinando tutte le organizzazioni indigene e sfila in corteo sotto la sigla 500 años. 500 anni, attirando su di sé l'attenzione di tutto il mondo. Pochi mesi dopo, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace, presenta ufficialmente la candidatura di Rigoberta Menchú al premio Nobel per la pace. Un colpo d'ala che costringe Rigoberta a affrontare ancora un'altra battaglia contro i suoi oppressori. M'entrò il miedo, m'entrò il susto, come si dice. Fui assalita dalla paura, dal timore di non essere all'altezza. Ero pur sempre una povera figlia di contadini. Cosa avrei fatto se avessi vinto il premio? Come avrei potuto utilizzarlo al meglio per aiutare il mio popolo? Mi sentivo una grande responsabilità. Io sentivo una profonda subestimazione. E per uno scherzo del destino, il 12 ottobre 1992, esattamente 500 anni dopo lo sbarco di Cristoforo Colombo, una minuta donna indigena discendente dai Maya attraversa la sala delle cerimonie di Oslo in Norvegia per ritirare il premio Nobel per la pace. Il premio Nobel è un emblema di pace e del lavoro en la construcción de una verdadera democracia. Estimulará a los sectores civiles para que en una sólida unidad nacional aporten en el proceso de negociaciones en busca de la paz, reflejando el sentir generalizado, aunque algunas veces no expresado por temor, de la sociedad guatemalteca. Y ya cuando nos dieron el premio Nobel fue una bendición. Cuando vinsi el premio Nobel fu una benedizione. Quando hai la convinzione che stai facendo il giusto, allora il tuo spirito ne esce rafforzato, sei libero. Ma se non hai anche i soldi, questa libertà non ha futuro. Quando ho saputo che mi avrebbero dato $1,000,000, io ho risposto che a me non servivano, ma sarebbero serviti per la libertà del mio popolo. La vittoria del premio Nobel è il giusto riconoscimento a una vita trascorsa a combattere per i propri diritti e per i diritti del popolo indigeno che per anni è stato sottoposto a una pulizia etnica da parte del governo guatemalteco. 200.000 morti, 45.000 desaparecidos, decine e decine di villaggi distrutti e poi stupri, violenze, torture di ogni tipo sono numeri impressionanti, ancor più gravi perché compiuti nei confronti di gente povera, disarmata, che non ha mai avuto nessuna colpa e nessun coinvolgimento nella guerra civile. Dobbiamo essere uniti. Può piacere o non piacere un'idea, ma dobbiamo essere tutti coinvolti nel processo di pace. Governo, guerriglieri, contadini, uomini e donne che dalla guerra hanno avuto solo sofferenza. Io sono e rimango una contadina. Ecco perché, con una parte dei soldi, ho acquistato una piccola proprietà in Guatemala, dove ha sede la mia fondazione, che continua a lavorare per il bene del mio popolo e di tutto il paese. Nel 1996 finalmente vengono siglati proprio a Oslo gli accordi di pace tra il governo guatemalteco e la Unión Revolucionaria Nacional, con cui formalmente termina la guerra civile in Guatemala. È la fine degli scontri, delle persecuzioni, però devono passare ancora altri 7 anni prima che la giustizia internazionale dia i suoi verdetti. Nel maggio del 2013 Efraín Ríos Montt, uno dei primi generali a avere ordinato l'uccisione degli indigeni del Guatemala, viene condannato a 80 anni di prigione per genocidio. È il riconoscimento definitivo che la strage degli indios è avvenuta solo ed esclusivamente per mano del governo e delle forze militari che hanno governato il Guatemala per 36 anni. Pochi giorni dopo, con una decisione a sorpresa, diremmo da Repubblica delle Banane, la Corte Costituzionale annulla la sentenza e dichiara che il processo dovrà essere rifatto. Rimane però il riconoscimento a livello mondiale di una strage che il popolo della regione dei Quiché ha subito e di cui il mondo è venuto a conoscenza grazie alla tenacia di Rigoberta. Rigoberta Menchú, una donna che ancora oggi non perde la speranza e la fede di ritrovare alcuni dei suoi fratelli desaparecidos. Patrocinio, Víctor, i suoi figli. Furono tutti assassinati, furono dichiarati desaparecidos. Probabilmente sono morti, ma la mia speranza che non lo siano è viva. E finché non verranno ritrovati i loro resti, finché non saprò con certezza cosa è successo, finché non potrò dare loro sepoltura, saranno vivi per sempre. Nunca los daré por muertos, serán vivos para mí para siempre. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una vita veramente straordinaria e commovente, un colpo d'ala continuo. E noi vi aspettiamo con altre storie. Vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che secondo voi merita di essere raccontata. Oppure seguitemi, interagite con me sul sito, da tutte le parti. Insomma, se mi cercate, mi trovate. Un saluto, un abbraccio, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.